E chi le aveva mai guardate così bene? Le stelle. Come faceva quella canzone? La nostra canzone. E lo era davvero, sai? E adesso guardami. Sì, guardami tu, perché io mi faccio schifo. Meschino ed egoista. Si chiamava come te, la mia dolce, dolce Crista. Qualche anno fa, ancora non sapevo cosa fosse questa merda di alcol, confessai a mio nonno che ci eravamo lasciati. E lui mi raccontò questa storia. Mi disse che la più bella delle fiabe d'amore era quella che viveva ogni sera con la nonna. Quando andavano a letto, con i cuori colmi di ricordi, di vecchiaia, di giorni passati, lui le baciava le labbra. E ogni sera, invece di dirle buonanotte, le sussurrava addio. Lì per lì mi sembra una cosa stupida. Invece è così maledettamente romantica. Ok, ora basta. Crystal e i miei saranno preoccupati. Meglio tornare a casa. Come avrebbe detto mio nonno, addio.